Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Alle 8:21 minuti riusciamo ad apparire, eccoci Oscar. Siamo apparsi anche oggi come un miracolo. Siamo apparsi? Teofania. Comunque, tu parli dei santi e io così sono calato dei, un po' nella parte. E io parlo dei santi perché a volte non mi resta altro che appellarmi a loro. Ai santi, hai ragione. Lo sai che con il decreto legge che è già in vigore, questo che mi obbliga alle comunicazioni trimestrali IVA, per cui mi costa ancora di più il commercialista, se faccio un errore di un euro... Ti arrestano. No, la sanzione minima è elevata a 5.000 euro per un errore di un euro. Da un euro. Fisco poco. Amico, capisci? Poco il fisco amico. Ma dai, cioè, una roba. Ma come si fa? È amico perché ti segue ovunque. Sì, ti segue ti sta ovunque. A fianco. Cioè, per qualunque. Non, ma ti non, abbandona non è uno scherzo, mai. Ragazzi. Cioè, è così. Infatti, secondo me, giustamente, Italia oggi ci apre perché per ogni minimo banale errore, col decreto, la comunicazione di questa idea, 5.000 euro, multa minima. Vuoi un fisco freddo che non ti pensi mai, che non ti... No, io voglio che tutti i santi mi benedicano e ci mettano la mano sulla testa, perché se a protestare anche per cose di questo genere, che sono evidentemente non stanno in cielo né in terra, passi per amico degli evasori e a quel punto veramente abbassi la voce e dici: santi, prendetemi voi, portatemi dove e siete. E oggi voi. Chi ti prende di santo? Oggi è San Goffredo, San Goffredo di Amiens e San Chiaro di Tours, cioè un giorno Chiaro. Dedicato alla cristianità francese gallicana. E poi mi sono sempre stati simpatici, ma questo solo chi ha passato molti anni a Roma, perché c'è una chiesa dedicata a loro, questi santi dalmati che si croati che si ricordano oggi, i famosi santi quattro coronati. C'è una chiesa a Roma appunto in centro. Questi quattro coronati erano degli scalpellini, devi sapere, che ai tempi di Diocleziano, quando il vecchio Diocleziano torna a Spalato, perché lui era di là, e Diocleziano vede questi quattro scalpellini così bravi e dice: voglio che mi fate degli statui di Sculapio. E loro iniziano a perdere tempo a fare altre statuette, Amorini, Putti, eccetera. Dice: non avete capito, voglio di Sculapio. E loro erano cristiani, però tentano di raggirare per così dire la commessa imperiale, fino a che l'imperatore dice: vabbè, allora vi butto in acqua con una bella pietra al collo. Questi sono i santi quattro coronati. Oggi nel 1923, oggi è un giorno politicamente importante perché ci sono molti precedenti per le elezioni americane. Nel 1923 Hitler tentò il golpe nella birreria bavarese. Gli andò male, ma poi gli andò meglio. Esatto. Nel 1926 i fascisti, violando l'immunità parlamentare, arrestavano Gramsci. Nel 60 Kennedy eletto presidente, nell'88 Bush eletto presidente, nel 2011 Berlusconi annunciava oggi le dimissioni da presidente del Consiglio. Auguri a Paolo Emilio Taviani, il loro compleanno, Virna Lisi, straordinaria, e a Sandro Mazzola. Oh, evviva! Allora, cari ascoltatori, oggi è il giorno, dai, è inutile, vi vogliamo chiedere al numero 800240024 ma siete appassionati a questa vicenda Clinton-Trump? O vi ha lasciato totalmente freddi? No, oppure pensate davvero che siano l'uomo o la donna più potente del mondo, quello che viene eletto oggi? Oppure magari due candidati presidenti peggiori da che vi ricordate le elezioni americane? Esatto, diteci la vostra, come seguite. Tra l'altro Radio 24 seguirà, sai, Oscar passo passo. Cioè, ci sono speciali da oggi pomeriggio, tutta la notte. Tutta la notte in diretta. Domani noi anche qui domani, torniamo. E a lei. Non vi abbandoneremo un secondo, come il fisco italiano. Sì, 5.000 euro magari. Non vi chiediamo pensa soldi, se noi chiedessimo però. 5.000 euro minimo, sale per nacchie, che barba da pazzi. Vabbè. Allora, va bene. No, poi parliamo oggi anche di altri argomenti. Intanto però, ieri sai che abbiamo parlato di questa cosa del decreto legge, della ricostruzione, il terremoto. Parleremo anche oggi del terremoto con questo aspetto del fatto che vanno un po' di soldi per il terremoto, ma quello in Irpinia ancora ai comuni della campagna. Chissà se abbiamo imparato qualcosa da quella specie di pozzo senza fondo. Però riguardo a queste deleghe e deroghe, più che deleghe, le deroghe, ci ha scritto un ascoltatore, Gianni, dalla provincia di Udine, che allora abbiamo chiamato perché ci ha scritto una cosa interessante. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Ieri lei ci ha scritto una cosa interessante sulla questione delle deroghe per la ricostruzione del sisma. Ce la vuole raccontare? La vuole raccontare ai nostri ascoltatori? In realtà, prendendo spunto da queste deroghe, mi ricollegavo alla questione delle opere che iniziano con un importo e quindi poi ci sono tutte queste varianti. Sono delle cose risapute, secondo me, e ammesse dalla legge e tutti lo sanno, solo che tecnicamente non è l'ANAC in questo modo che sta cercando di introdurre sempre più norme, non fermeranno i truffatori, voglio dire, stanno solo bloccando tutto il resto delle persone per bene che stanno lavorando nei lavori pubblici. E quindi io ho iniziato a lavorare molti anni fa, io mi occupo di appalti ma di piccoli importi perché lavoro in piccoli comuni, e noi ormai siamo arrivati al punto in cui abbiamo il CUP da fare per il CIPE, sembra quasi Super Gulp, sì, e il CIMOG, e la BBAP, e l'ANAC, e la VCPAS, cioè non si riesce più a fare un lavoro, perché? Perché si mettono i segnali da 50 all'ora per tutti, ma poi chi vuole andare a 100 all'ora va lo stesso. Sì, certo, quindi lei dice insomma troppe regole, ci sono troppe regole, troppe deroghe che poi dopo vengono a fare anche aumentare anche i costi. Sì, insomma. Ma fanno aumentare i costi, e secondo me il problema è semplicemente, sarebbe facile da superare, meno avvocati, più ingegneri. Magari. No, io sono geometra, io sono di quelli che andranno a sparire, no? Perché ho già 50 anni. Però... È una razza in via d'estinzione. Però Gianni, lei dice questa ricetta. No, ma la ringraziamo. Oscar, però i nostri ascoltatori sono molto attenti. Hai detto che è il compleanno di Virnalisi, ma Virnalisi è morta 2 anni fa. Ma era nata però. Ah, certo, no, no, sì, ma attenzione. Io ricordo i giorni della nascita. Giusto, ma però non è la prima volta, cari ascoltatori, quindi state più attenti, perché io vi ricordo il giorno di nascita dei grandi italiani che ho amo. Molti ascoltatori scrivono, ma Virnalisi è mancata. Questo non lascia. Non toglie che l'8 novembre. Che bisogna ricordarla, una grande italiana che era nata oggi. Allora, però a proposito di terremoti. Caro Oscar, lo sai che sono arrivati dei soldi, che sono soldi statali del Ministero delle Infrastrutture, girati alla Regione Campania, che la Regione Campania con una delibera ha distribuito un po' a pioggia a vari comuni interessati al terremoto dell'Irpinia. Che bello. Guarda, che ti sta ascoltando l'assessore ai lavori pubblici di Avellino, che ha anche la delega alla protezione civile, Costantino Preziosi, l'ingegner Preziosi. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sa che quando, caro assessore, la gente legge queste notizie fa come minimo un piccolo balzo sulla sedia, ecco, questo ce lo concede? Adesso lei ci dirà che sono tutti i soldi dovuti, i soldi giusti. Però un piccolo balzo sulla sedia si fa. Quanto avete ricevuto intanto da Avellino? Allora, ancora non si sa con precisione, diciamo. Ancora non si sa con precisione, però comunque sono soldi vecchi, diciamo, di 35 anni dal sisma dell'80. E i giornali raccontano 600.000 euro, potrebbe essere questa più o meno la cifra. Ma penso che con 600.000 euro il comune di Avellino faccia poco, perché noi abbiamo un bel po' di problematiche, soprattutto per quanto riguarda la prefabbricazione pesante post-sisma. Cioè, quella prefabbricazione è nata appunto dalle esigenze di carenze abitative e quindi con 600.000 euro effettivamente... Stiamo parlando di 36 anni fa, giusto? Amico? Certo. 36 certo. Anni, cioè ci sono ancora problemi di ricostruzione post-sisma di 36 anni fa. Sì, ad Avellino ci sono ancora interi quartieri dormitorio caratterizzati ancora dall'edilizia prefabbricata degli anni 80, quindi... Le varie amministrazioni hanno preso fondi da altre, fondi regionali, fondi nazionali, e fondi che europei. Fatto con questi fondi? Per ricostruire in questi 30 anni questa prefabbricazione pesante, però siamo ancora a zero. A un 50%. Quindi si sono ricostruite gli edifici pubblici, le strade, fognature, però in realtà... le case no, ancora no. Assessore, io non so quanti anni abbia, dedurrei dal tono di voce, magari mi sbaglio, mi corregga, ma credo abbastanza giovane. Esattamente. Allora io parto da questo presupposto, dando per scontato che ovviamente lei non può, cioè appartiene, se non fosse altro per una questione generazionale, appartiene a una generazione che non può avere colpa diretta in quello che è successo negli anni immediatamente successivi. Quindi però le faccio una domanda, le faccio una domanda a nome di tanti ascoltatori. quando i nostri ascoltatori, a me è capitato più spesse volte di scrivere sul Mattino, scrivo sul Mattino, mi chiedono sempre: fai il riepilogo di quanto è costato l'Irpinia. Allora, l'Irpinia, a seconda delle metodologie che usiamo, diciamo, ci sono classificazioni di contabilità pubblica, ma l'ordine di grandezza è tra i 33 in termini di miliardi di euro attualizzati, tra i 33 e i 37 miliardi di euro di denaro pubblico, fino a questo momento in 36 anni. Allora, quando io sono obbligato a ricordare che il Friuli, che chiuse tutto in 10 anni, la ricostruzione e la messa in sicurezza, che come ordine di grandezza, di vittime, insomma, lo sa, no? Superiore, però certo, detto questo, e in realtà con un costo pari a meno di un terzo, allora la gente si chiede l'inevitabile, no? Inevitabile. È vero che l'area dei comuni che vennero ammesse ai benefici in Irpinia era enormemente più ampia di quella friulana. Però detto questo, alla gente gli si può dire, almeno secondo lei, alcune delle cose di fondo che hanno portato a questa dissipazione di risorse? Quali sono? Non lo so questo, perché effettivamente si è ricostruito in tutta la provincia. Forse si è ricostruito male, nel senso in aree che non davano più un significato abitativo, questo non lo so. Però io vedo la situazione della città di Avellino, in cui ci sono ancora un bel po' di case di prefabbricati post terremoto, e quindi non si può nel 2016, a circa 35 anni dal sisma, la domanda era capire, cioè tentare una lettura di quello che è successo in questi 36 anni, non che abbiano diritto ad avere una casa, è stralegittimo. Forse si è pensato più alla ricostruzione di aree pubbliche, edifici pubblici, che in fin dei conti non ad Avellino, forse nei paesi piccoli non hanno troppo significato. Non lo so, però il dato è quello, Oscar, 37 miliardi e non si è ricostruito le case, un terzo, e in 10 anni si è ricostruito tutto. Allora, comunque, misteri della fede. Perché lo chiedo? Lo chiedo perché solo se noi abbiamo una lezione pubblica condivisa degli errori del passato, il terremoto, ci candidiamo a non ripetere, cioè trarre lezioni dal passato. È inutile far polemica adesso su chi ha governato 36 anni fa. Non possiamo tutto qua. Fare dietrologia. In questo momento la lezione del sisma dell'80 ci deve far capire, esatto, che si deve dare prima la priorità alle esigenze abitative e poi al resto. Vabbè, allora per concludere, assessore, visto che lei ha detto 600.000 sarebbero anche pochi, però quello mi risulta che arriverà da questa delibera della Regione Campania, poi magari ne arriveranno altre, chi non sa, la provvidenza, non mettiamo mai i limiti. Però quanti soldi servirebbero ad Avellino per chiudere definitivamente questa pagina? Io reputo che come ho detto in precedenza, riprendere tutta la vecchia prefabbricazione pesante occorrono al comune di Avellino almeno 20-25 milioni di euro. 20-25 milioni, ce lo segniamo. Va bene, assessore. Cifre di un altro livello rispetto ai 600 mila. La ringraziamo. Costantino Prezioso, assessore ai lavori pubblici di Avellino. Oscar, aggiorna la cifra. Visto che ti chiedono conto sul Mattino ogni tanto, ad Avellino servirebbero 25 milioni, ma lo tra i 20 e 25 poi, perché per lo Stato dice tutto. Che se sbagliamo di un euro la dichiarazione ha bisogno di 5.000 euro di sanzione, per queste ragioni qua. E ripeto, qui io non sto facendo polemica sull'assessore oggi, su chi si trova amministrato dopo 36 anni. È nato il problema, lo ricordo a tutti, che si moltiplicò per un ordine di grandezza di 10 volte l'area dei comuni ammessi a beneficio. Cioè all'epoca la DC fece una scelta brutalmente clientelare, questo è il punto di fondo. Questo sì. Gava, De Mita, il potere di allora. Almeno, allora si è allargato il cratere eccetera, ma almeno si fosse risolta la situazione. Bravo. Cioè almeno uno dice vabbè, ci hanno fregato all'inizio, tra c'hanno virgolette. Ancora le casette. E invece no, servono immediato. Ancora 25 milioni solo ad Avellino per chiudere la questione. Va bene, c'è invece Francesco che ci chiama da Salerno. Buongiorno Francesco. Buongiorno Giannino, buongiorno Milan. Ci chiama dalla Salerno dove tutto funziona, perché c'è De Luca, l'ex sindaco nel cui ufficio il sindaco attuale non entra perché non vuole neanche Francesco, sollevare la polvere sul tavolo. È entrato in studio un personaggio. La verità sta nel mezzo, insomma, non è tutto oro. Comunque, chiamavo in relazione alle elezioni degli Stati Stati Uniti. Ah. Siccome io quest'anno sono stato in America con mia moglie, che è cittadina americana, il feeling dei suoi parenti è quello di votare Trump, perché loro si fidano di più di un imprenditore rispetto al politico. All'establishment. Di dov'è, sua moglie come stato americano? New Jersey. Ah, strano, di solito New Jersey è uno di quei paesi fortemente, perché New Jersey è uno stato un po' disastrato che ha una fortissima polemica, ex stato operaio, certo, di classi basse, quindi ci sono molti posti in New Jersey dove la gente se la passa male e ce l'ha molto con l'establishment. Quindi sua moglie e la famiglia sono pro Trump. Diciamo il 90% della famiglia è pro Trump e qualcuno, qualche amico. Ma sua moglie ha votato? Cioè vota dall'Italia? Non vota dall'Italia. Non vota. Ma perché? Noi siamo stati lì per far avere la cittadinanza ai bambini che sono nati qui in Italia. Bravi. Ah, ok. Che uno può essere un'opportunità, però no, non vota. Non vota per, non vota per scelta, perché si può votare. Sì, sono oltretutto i due candidati peggiori della storia delle elezioni americane. Questo è un fatto, anche secondo me. Non attraggono le persone al voto. Perché questo è anche un dato interessante. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che poi quello che è l'uomo o la donna più potente del mondo vanno a votare più o meno il 50% degli americani. Beh, come è noto, non è mai stato l'elevato rato di partecipazione il sistema per misurare la democraticità degli Stati Uniti d'America. Questo sì. Però, e comunque Trump, il vero motivo, cioè perché Trump arriva qua? Ma è la vera chiusura di un ciclo dell'establishment del Partito Repubblicano, che malgrado 10 anni di schiaffi alle elezioni parziali del Congresso inflitte ai suoi candidati dell'establishment, cioè voglio dire del gruppo Bush, del gruppo, ecco, dai candidati dei Tea Party, niente. Credevano ancora di poter disciplinare le primarie e hanno schierato 16 candidati rispetto ai quali Trump era il maverick, quello che viene da fuori, la voce dal basso di chi ha bassi redditi, bianchi, che non si identificano in questa roba qua. Questo è il vero motivo per cui Trump è arrivato lì. Sì, altrimenti un qualunque altro candidato repubblicano con i difetti di Hillary vinceva. Questo. Però vedi, ci sono i cosiddetti swing state da una parte e dall'altra. Per esempio lo Utah, sai, ormai è notorio che ospita un ragazzo dello Utah in questi giorni. Lo Utah che dal 1968, mi ha detto, è repubblicano, quest'anno per la prima volta è a rischio. Ci sono molte persone che potrebbe andare a Hillary Clinton. Ricordate anche che si vota anche per la elezione della Camera, un terzo del Senato e vari referendum, tra cui anche quello dell'uso dei profilattici nei film porno in California. Chissà, magari gli americani saranno più interessati a questo, non lo so. Si vota anche su questo, è un dato di fatto. Vedi, la vera democrazia, non come da noi dove stanno facendo di nuovo la legge elettorale proporzionale, dove voi andrete a votare e i partiti avranno mani libere. Non so se avete capito, però, cari italiani, in California si vota anche un referendum per togliere l'obbligo dell'utilizzo del profilattico nell'industria del film porno. Vabbè, vi lasciamo la pubblicità, rientriamo tra un attimo su questa notizia. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. 24 mattino. Attenti a noi due. Alle 8:42 minuti ci chiede un ascoltatore cosa c'è di referendum popolare nella questione del profilattico e film porno. Io non ho una risposta a questo. Quella è la scelta fondamentale? No, non ho una risposta tecnica del perché si sia arrivati a un referendum in California su questo, però il dato di fatto è che il referendum perché, c'è. Perché alcune dell'industria del porno ritengono... valutazione loro che conoscono evidentemente il mercato di rimetterci, perché obbligati nelle pellicole all'utilizzo del preservativo, chiaro, questa roba attira meno il pubblico. Però Michele da Milano credo che ci abbia chiamato per altri motivi. Buongiorno Michele. Buongiorno. Sì. Sentite, sì. Eccoci. Sì, volevo dare giusto così la mia idea sulle elezioni americane. Più che l'idea, allora, della campagna del dibattito non è che sia molto interessato. Lavorando nel campo finanziario, cioè investimenti per una banca, quindi per i clienti di questa banca, i mercati finanziari seguono con un certo interesse le elezioni per capire dove... E lei condivide la scommessa fatta con un political bias grande come una casa, secondo me, cioè con un pregiudizio politico a favore della Clinton? Cioè crede davvero che se Trump ce la dovesse fare, improbabilissimo, ma crede davvero, non avendo a favore un congresso, perché non ce l'avrebbe né se la maggioranza democratica né repubblicana, perché il partito ce l'ha contro, crede davvero che avverrebbe lo sfascio che i mercati finanziari sono stati indotti a credere? Per fortuna l'America ha tali e tanti contrappesi istituzionali che anche nell'eventualità andasse Trump, come ha dimostrato anche quelli degli 8 anni del personaggio personaggio George W. Bush, non è che fosse uno statista di incomparabile grandezza, l'America è andata avanti lo stesso, quindi no, penso anch'io, la reazione sarebbe magari immediatamente, esatto, leggermente negativa, ma poi nel tempo... Una grande fiammata di scommessa, diciamo così, più ma è fondamentale. Più che altro dalle sue parole, mi scusi se l'ho interrotta, più che altro dalle sue parole o da... si potrebbe capire come a livello settoriale, ecco, per qualche industria, soprattutto americana, ma anche globale, si può muovere l'America. Per esempio mi viene in mente l'industria petrolifera, dove negli ultimi anni Stati Uniti, ma è chiaro, chiaro che va seguita con attenzione, ma le conseguenze ci sono comunque, come l'establishment stanno con Clinton, la borsa è risalita sulla previsione degli ultimi sondaggi che danno in vantaggio a Clinton, e quindi come racconta è un po' come qui, se vince no succede l'ira di Dio, cioè sui mercati ovviamente no. Dopo che abbiamo raccontato non succede l'ira di Dio, neanche se vince Trump, lo spread sale poche ore, poi il problema resta, è fondamentale. Per esempio, voglio dire, tutti i giornali italiani, anzi non tutti, molti oggi montano questa polemica come se Juncker avesse detto me ne frego di Renzi. Mi spiace dire, per chi fa il nostro mestiere c'è l'obbligo di dire che Renzi non ha mai detto me ne frego di Renzi. Juncker, amo dire che ogni tanto borbotta e rendendo evidente, ricordando a tutti che beve un po' troppo, perché ieri borbottava a giornalisti cose non molto chiare. È vero, beve troppo, ma è nota questa storia. Comunque, ieri ha detto, se qualcuno vuole continuare a sostenere che con la mia commissione rispetto alla precedente si è continuato con lo stesso rigore, me ne frego. Ma non le era testuali, parole testuali, guarda, lo scrive Beda Romano oggi sul Sole, ha detto: non si deve più dire, o meglio si può sempre dire se lo si vuole, in fondo non mi interessa. Insomma, non si può più dire che le politiche di austerità siano continuate come con questa prima commissione. Esattamente. Quindi, invece la stampa italiana monta, ha detto me ne frego dell'Italia di Renzi. Ecco, allora, voglio dire, secondo me tradiamo la nostra missione. Cioè non possiamo mettere in bocca, vista la delicatezza dei rapporti tra l'Italia, con Renzi e l'Europa, cose al Presidente della Commissione Europea che il Presidente della Commissione Europea non ha detto. O ha detto in modo, diverso. Ecco, il concetto è questo. Quello che ha detto, invece è vero che ieri poi ha ribadito che c'è troppo deficit, però ieri era anche il giorno in cui nelle audizioni in Parlamento la Banca d'Italia, l'Ufficio Parlamentare del Bilancio, l'Istat hanno detto le stesse cose della legge di bilancio. Non è che è un fatto che si inventa solo Juncker. In ogni caso andiamo a Frosinone da Mauro. Buongiorno. Buongiorno Giannino, buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori. Io volevo fare velocemente due osservazioni. La prima, magari sarebbe il caso di eliminare i subappalti, se fosse possibile, con una bella figurazione di chi vince la gara all'80%, perché si dice che sono tutte aziende camorristiche, allora avranno sicuramente il capitale per coprire queste cifre di un'opera pubblica. Se altrimenti viene meno l'assioma che le grandi opere pubbliche le fanno solo i mafiosi, quando meno. Per quanto riguarda la seconda, mi piacerebbe affrontare la problematica dell'inflazione e dell'iperinflazione. Signor Giannino, soprattutto, che è un attento osservatore, mi piacerebbe che l'affrontasse realmente, perché qui si parla di deflazione, ma realmente noi abbiamo avuto un periodo di inflazione che va dal 2002 al 2009. Le case nel mio paese avevano raddoppiato il valore, addirittura la nafta noi la pagavamo 2 euro al litro. E lei la rimpiange quell'inflazione che oggi tutti invocano? No, quella è iperinflazione. Se vogliamo c'è un adeguamento ai prezzi, c'è praticamente un'armonizzazione dei prezzi, quindi non siamo in una praticamente deflazione, come qualcuno ci vuole far credere. Però questo è un, diciamo, c'è bisogno di approfondirle cose simili, quindi a quest'ora col pubblico generalista è un po' complicato. Però mi piace questo spunto, perché oggi molti lo invocano solo per dare una mano allo Stato, perché l'inflazione poi è una mano solo a chi ha molti debiti ed è una tassa sulla povertà. È vero che noi su alcune asset, le case, abbiamo vissuto anni con l'illusione che moltiplicassero solo il valore, e poi come si vede ci sono punti di caduta del reddito della produzione in cui anche il valore delle case plop, poi fa cade, flop. Cade. Però si sta riprendendo adesso il mercato immobiliare. Pochino, ci sono i primi segni in alcune parti d'Italia, le grandi città, eccetera, eccetera. Comunque ringraziamo Mauro da Frosinone, andiamo a Mauro, sempre Mauro da Modena però. Buongiorno Mauro, eccoci qua. Buongiorno a voi. Volevo parlare appunto della presidenza degli Stati Uniti. Certamente io spero assolutamente che Trump non possa diventare presidente. Ma se vado dritto alla memoria, gli americani sono un po' un popolo strano. Se penso che l'ultimo presidente repubblicano, il figlio Junior, George Bush Junior, Bush Bush Junior, ha ha portato la guerra in Iraq, che sta ancora facendo migliaia di morti e soldati, migliaia di americani, centinaia di migliaia di popolo iracheno. E l'ISIS, secondo me, è figlia di questa situazione. Allora dico, ma è un popolo strano, perché ha rinnovato addirittura. Pensa che uno degli argomenti però di questa campagna è che ISIS, che nasce da una trasformazione qaedista e di ufficiali battisti iracheni, abbia a che fare anche molto con le scelte della Clinton, sì, segretaria di Stato. Devo dire, Oscar, che anch'io ho sempre avversato questa scelta della guerra in Iraq, però insomma adesso lei, Mauro, forse mette insieme un po' se le facciamo cose in maniera, della politica estera, no, Obama mi permetta un po' dozzinale, è trasversale, ecco, l'opinione che sia stato un fallimento la politica estera di Obama. Però detto questo, sa, gli americani scelgono però i presidenti, sì, noi no, noi. Però, guarda, c'è per esempio un ascoltatore, proprio Michael, ci dicono da San Benedetto del Tronto, mi dico la redazione, cittadino americano, quindi strano. Vota? Strano, lei vota? Strano, uno dei cittadini strani che ha scelto Bush. Michael, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che ci vuole dire? No, che ci vuole dire? C'è allora, no, io pensavo che ci fossero domande da... Ah, no, no, visto no, che Mauro ha detto sono strani questi americani a pensare che hanno eletto George Bush Junior, che ci ha portato alla guerra in Iraq, quindi sono strani. Vabbè, in realtà George Bush secondo me è un bel paglio per la nostra nazione, io personalmente non l'ho votato. Però io volevo oggi dire che secondo me la Hillary Clinton è un grandissimo bene per la nostra nazione. Secondo me tutte le critiche che le vanno contro sono spronate da confusione o addirittura scettismo, perché secondo me lei ha fatto non altro che vai e viene un po' la voce, però Michael, va un po', vai viene un po' la sua voce, no? Provi, scusate, sono un po' emozionato. No. Soggetto. Comunque voglio dire che lei sarà un gran bene e lei farà nient'altro che portare avanti, diciamo, tutte le cose buone che Barack Obama ha provato a fare per la nostra azione. Cioè, quindi lei vota? Ha già votato? Perché si può votare anche prima. Già votato. Ricordiamo, esatto, 3 giorni fa c'erano 37 milioni di americani che avevano già votato con l'early vote. Cioè si può votare prima, no Michael? 37 milioni. E in alcuni stati si può anche cambiare idea dopo che si è espresso l'early vote. Lei di che stato è? Di dove vota? Io sono di New York, la città New York, propria. New York, proprio New York. Esatto. E lì è un feudo, insomma, democratico. Giusto, però anche io sono privilegiato di essere stato a New York durante tutta la senatatura, se si può dire così, di Hillary Clinton quando lei era nel Senato a New York. E lei, specialmente dopo 2001 con gli attacchi terroristici, lei ha fatto nient'altro che supportare il nostro Stato e attivare dei fondi di emergenza per i post attacchi. Lei non ha dubbi, non ha dubbi, ha votato per Hillary Clinton. Io sono di quelli che ce l'ho, su Hillary Clinton. Michael, la ringraziamo. La San Benedetto del Tronto ha votato nello stato di New York, città di New York, Hillary Clinton. Vedremo poi gli altri suoi connazionali. Davide ci chiama da Como. Buongiorno Davide. Sì, buongiorno a tutti. No, beh, mi accodo anch'io al fatto che gli americani sono un popolo un po' strano. Ma per strano? Ma per dice, una ma cosa. No, no, no, per no, una no, cosa, ce la spiega. Ecco, ma io dico, tutti ormai concordano, io anche dei clienti degli Stati Uniti con cui parlavo nei giorni scorsi, comunque sono dei candidati entrambi che non convincono per vari motivi. E questo, ma sì. ci sono altri candidati. Cioè, perché gli americani si fossilizzano su un bipartitismo spinto? Ma come? Ma è la storia dell'America. C'è un candidato, Gary Johnson, sì, che è stato anche governatore del New Mexico, partito libertariano. Ma perché non votano loro? Cioè, nel senso, se vabbè, ma è democrazia, se prende i voti. Ma dico, in tutto il mondo stanno nascendo anche dei movimenti, anche noi in Italia, che vanno oltre quello che è il bipartitismo solito. E io mi chiedo, ma come mai, cioè, gli americani devono turarsi il naso, votare il meno peggio, quando magari hanno dei altri candidati che sono comunque validi? No, però scusi, perché siccome ha citato un candidato che a me sta simpaticissimo, perché si figuri, io sono distinto e anche ho moltissimi amici libertari, quindi questa è la cultura mia prevalente, quella là. Detto questo, loro hanno un meccanismo, secondo me è criticabile per tante ragioni, perché tra il processo pre-primarie, le primarie e il voto, insomma, dura un anno e mezzo, è una roba che non si è mai vista. Ma detto questo, è peggio per chi ha i sistemi politici frazionati, che non esprimono governi, piuttosto che concentrarsi sul meno peggio, ma tra due alternative. Ecco, questo la storia lo dimostra abbondantemente: il ciclo elettorale, la spesa, il deficit, tutto qua, non per dire che l'America va bene tutto, ma ci sono buone ragioni. Da due ascoltatori che gli americani sono strani. Stavolo strano, come si diceva nel famoso film con la Gerini. Dai, domani sapremo a quest'ora chi è il nuovo presidente americano. Vado a pagare la mia sanzione da 5.000 euro, va. E non sbagliare. Anche per l'Irpinia. Va bene. A domani, grazie.